Fondamentalmente le porte USB, perché sono abbastanza comode per la lettura dei file multimediali, come file video, file musicali, quindi anche per questo. Ma ne cercavo uno che potesse registrare anche, con registrazione programmabile. Di più internet, navigo spesso. È solo digitale terrestre, lo utilizzo solamente per guardare la TV a pagamento. Quindi ha fatto anche degli abbonamenti? Sì. Ne ho preso uno a un basso prezzo che è anche un lettore DVD e DVX, è tutto compreso.